A presto. Ciao, fermati. Vi è piaciuto? Sì. Sì, mi è piaciuto molto. Sì, molto, mi è piaciuto molto questa gita. Anche, vorrei tanto rifarla. Anche a me mi è piaciuto. Paolo, ti è piaciuta questa avventura? Sì, mi è piaciuta molto. Hai qualcosa da dire? Sì. Cosa? Beh, è stato molto bello, hanno spiegato bene le cose, gli animali, il rumore dell'acqua e i proprietari erano simpatici e mi è piaciuta. Tu Rosita cosa vuol dire? Io sì, perché abbiamo visto tanti animali, l'asinello e le galline.